Nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.37 e tramonterà alle 19.43. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Dalla fattoria alla forchetta, è questa la filosofia su cui si fonda la startup Soplaia. Nata 2 anni fa, cresciuta in Friuli Innovazione e nell'acceleratore d'impresa di Lubiana, taglia di netto attraverso la tecnologia la catena di passaggi tra produttori e ristoranti per fornire ingredienti on demand e a domicilio agli chef del Friuli Venezia Giulia e non solo. Primavera, tempo di asparagi, protagonisti del corsivo di oggi di Enos Costantini. Per la rubrica dedicata alle normative faremo il punto sulla difesa sanitaria obbligatoria in agricoltura e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Spazio poi ad una nuova puntata della complessa storia dell'allevamento bovino in regione, mentre per l'angolo dei giardini andremo alla scoperta delle meraviglie botaniche del parco di Villa Rubini a Spessa di Cividale. Quindi le nuove fortune della grappa, protagonista tra anni 70 e 80 dei primi eventi a lei tutti dedicati. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana e proverbio friulano chiudono la puntata. Futuro e ristorazione. Si concentra in questo connubio la fortuna di Soplaia, giovane startup regionale che ha puntato su un'app capace di accorciare la filiera tra produttore, chef e consumatore, ovvero il cliente che si siede al tavolo del ristorante, come ci spiega l'amministratore delegato della startup, il triestino Mauro Germani. Soplaia ad oggi serve oltre 250 ristoratori del Friuli Venezia Giulia e non solo, connettendoli con oltre 140 produttori, anch'essi non solo regionali. Quindi oggi Soplaia è uno strumento digitale estremamente semplice che crea questa connessione diretta tra ristoratori e quasi 3.000 ingredienti. Come sta cambiando il mondo della ristorazione? Da dove nasce quindi l'idea di Soplaia? Ci siamo resi conto, lavorando nella ristorazione, che i canali di approvvigionamento sono rimasti pressoché invariati negli ultimi 30 anni, quando invece le esigenze del consumatore sono state stravolte negli ultimi 4-5 anni soprattutto. Quindi oggi il consumatore, quando va fuori a cena, a pranzo, cerca un'esperienza, esperienza che passa sicuramente dalle materie prime, e quindi oggi il consumatore cerca un prodotto artigianale, di nicchia, biologico, locale, tutta una serie di prodotti che il grossista classico ha difficoltà a proporgli. Da lì ci siamo resi conto che era possibile creare uno strumento che semplificasse questo tipo di approvvigionamento e quindi rendesse possibile per il ristoratore approvvigionarsi di tutti questi prodotti con la semplicità di un click e senza particolari ordini minimi, avendo un contatto diretto dall'altra parte con il produttore. Farm to fork, dalla fattoria, dall'azienda agricola alla tavola, questa è l'idea di base. Assolutamente, i canali di approvvigionamento classico lasciano un po' perdere tutte le informazioni su metodi di allevamento, piuttosto che informazioni sul produttore, su metodi di coltura, e quindi abbiamo deciso di dare una priorità massima a questo, fornendo informazioni su prodotti e produttori in maniera chiara e trasparente sempre all'interno della piattaforma. Vantaggi per i ristoratori, vantaggi per le aziende di produzione? Uno su tutto, dire, reperire migliaia di prodotti che altrove non si trovano o si trovano con processi di acquisto complicati, quindi ordini minimi alti, poche e inefficienti consegne. E ci sono in arrivo anche nuove funzionalità. La possibilità di impostare ad esempio un ordine ripetitivo, ordinami un cartone di uova ogni lunedì, fino a funzionalità estremamente più futuristiche come quella che sarà disponibile nel 2020, un dispositivo a cui proprio posso parlare come ristoratore e dirgli ordinami 3 kg di carote per domani e mi dirà ok chef e lo farà. Pane e pesce, i nuovi settori che state sviluppando. Siamo riusciti a creare una connessione ottima con due gruppi di pescatori, uno friulano e uno veneto, che ci permettono quindi di offrire alla stessa stregua degli altri prodotti anche questa tipologia di prodotto molto più complicato. Anche nel settore pane non c'è il pane classico e basta, ci sono mille varianti, uno su tutti il pane fatto con i grani antichi. Anche il raggio di azione della vostra startup si sta ampliando con un occhio anche all'ambiente. Sì, abbiamo deciso di replicare il modello ormai funzionante sul Friuli Venezia Giulia in altre zone d'Italia, a partire dal Veneto, da Padova nello specifico. Coltivati o selvatici, gli asparagi sono i re della tavola di primavera per raffinatezza e virtù salutistiche, come ci racconta Enos Costantini. Spark. Dove l'italiano usa quattro vocali, asparago, e il veneto ne usa tre, spareso, il friulano ne utilizza una sola. Spark sembra una onomatopea da fumetto, come bang e come crack, il colpo di un'arma d'avancarica. Pare che già gli egizi lo coltivassero, mentre i greci ne apprezzavano soprattutto le virtù medicamentose salutistiche. I romani, quelli antichi, e soprattutto i più abbienti fra essi, si deliziavano dell'asparago coltivato nei dintorni di Ravenna, pur non trascurando l'asparago spontaneo che i raccoglitori facevano affluire nell'urbe. La storia dello spark si muove su più fili. Coltivato e selvatico, ad uso alimentare e ad uso terapeutico. Quello coltivato ad uso alimentare, vista la laboriosa agrotecnica e in alcuni casi la costosa forzatura, era destinato alle classi più elevate e soltanto in tempi assai recenti è divenuto più democratico. Anche in Friuli era considerato un alimento di pregio e solo le famiglie di nobili o di possidenti che potevano permettersi un ortolano lo facevano coltivare nei loro ben tenuti broli, assieme all'uva da tavola e agli alberi da frutta. Lo spark salvadi, o spareso salvarego dei Veneti, è stato utilizzato dall'uomo probabilmente da quando è sceso dagli alberi e per i millenni successivi in cui è stato raccoglitore. Immaginate la soddisfazione che provava in primavera da questi succulenti germogli. Ora, con dotto francesismo, li chiamiamo turioni, ma fino a non molti anni fa in italiano erano detti semplicemente polloni. Se fino alla metà del secolo scorso l'asparago non era di fatto coltivato nel meridione d'Italia, era perché vi si faceva ampio uso dell'asparago selvatico, che cominciava ad apparire sui mercati già a febbraio e non aveva certo bisogno di forzatura. Ancora due osservazioni. Il nome spark, come il del resto spareso, viene dal latino asparagus, che i latini hanno preso dal greco. I romani, quelli antichi, hanno spesso adottato per le piante nomi greci. Ciò si spiega col fatto che tante piante avevano un uso medico e che i medici a Roma erano tutti greci. Seconda osservazione. 100 grammi di asparago contengono soltanto 17 kcal. Mentre 100 grammi di quella poltiglia marrone al profumo di nocciola che abbonda nei supermarket ne contengono 530 di kilocalorie. E ora girate pure per i corridoi di quegli amabili ambienti a controllare quante sono le kilocalorie inutili come cadaveri che affibbiate quali merendine a innocenti figli e nipotini. Ora che il team dei Sparks, i friulani fanno il plurale con la S e per giunta neppure sibilante, ricordate che avete l'occasione di depurare il sangue con i candidi turioni, ma anche con quelli color verde militare che scoppiano di vitamina C, avendone ben 121 mg su tutte le punte. La cronaca delle ultime settimane, con la vicenda anche giudiziaria della moria delle api in regione, ha acceso l'attenzione anche del cittadino comune sul tema della difesa integrata. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, riprendiamo i concetti principali. Sì, tutto parte da una direttiva comunitaria di 10 anni fa, la numero 128 del 2009, che ha tracciato le linee guida per l'utilizzo sostenibile degli antiparassitari. In Italia queste disposizioni sono state recepite dal decreto legislativo 150 del 2012 e da un decreto ministeriale del 2014 noto come Piano di Azione Nazionale in sigla PAN. È una regolamentazione molto articolata che riguarda non solo la vendita, lo stoccaggio, il trasporto, l'utilizzo, lo smaltimento dei prodotti fitosanitari, ma anche la formazione di consulenti e operatori fino alla taratura delle macchine operatrici. E per quanto riguarda la difesa integrata? Allora, le norme che ho citato istituiscono la difesa integrata obbligatoria. Questo significa che per proteggere le colture dai parassiti, le imprese agricole non possono più, come accadeva in passato, effettuare una lotta chimica a calendario. Devono obbligatoriamente utilizzare tutte le possibili misure di prevenzione, fare sempre un monitoraggio dei patogeni per verificare l'effettiva presenza e le soglie di danno, se possibile utilizzare mezzi di lotta fisici o biologici e solo in ultima istanza la lotta chimica, e comunque prediligendo principi attivi a bassa tossicità. L'obiettivo è quello naturalmente di garantire il raccolto, minimizzando però i rischi per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Per fare questo quindi serve formazione. Sicuramente serve formazione, che peraltro è obbligatoria per conseguire l'autorizzazione all'acquisto e utilizzo dei fitofarmaci, il cosiddetto patentino, ma soprattutto servono date informazioni tecniche in un orizzonte che va oltre il perimetro della singola azienda. Per questo motivo il PAM prevede che per una corretta applicazione della difesa integrata i produttori agricoli debbano avere sempre liberamente accesso ai dati meteorologici passati e previsionali, i dati fenologici e fitosanitari derivanti da una rete di monitoraggio, materiale informativo e manualistica e soprattutto i bollettini territoriali per le principali colture emanati dalle autorità competenti. Per il Friuli Venezia Giulia, chi mette a disposizione tutti questi dati? Allora, nella nostra regione la competenza è dell'ERSA, che pubblica sul suo sito www.ersa.fvg.it tutte le informazioni del caso. Ogni utilizzatore di presidi sanitari pertanto è tenuto a consultare attentamente il sito e applicare quanto indicato nei bollettini. Oltretutto nel sito dell'ERSA si trovano anche i manuali della produzione integrata volontaria e della produzione biologica, che servono per il conseguimento delle certificazioni agroambientali o biologiche. Si tratta evidentemente di prescrizioni che vanno oltre la semplice difesa integrata obbligatoria, ma che possono risultare estremamente utili per l'impostazione di una corretta strategia aziendale per la difesa fitosanitaria. Con Sandro Menegon, nelle ultime puntate dedicate ai bovini, ci siamo soffermati sul ripopolamento postbellico nella parte montano occidentale e centrale. Oggi passiamo a quella orientale. Nel Tarvisiano i 9 tori Meltal importati nel 22 dalla Carinzia dimostrano la volontà di ripristinare l'allevamento di questa razza. Nel 1919 per il Canal del Ferro il Gemonese si pensò, vista le difficoltà di acquisto di bestiame Meltal in Austria, di ricorrere alla Vallostana. Vennero approvati 40 tori, di cui 22 Meltal e 18 Vallostani, più 13 Vallostani nel 1920. La già citata legge sulla disciplina della monta taurina del 26 fissò la distribuzione geografica della Meltal nei comuni montani dei mandamenti di Tarcento e Cividale, nel Gemonese, Canal del Ferro, Valcanale, Alte Isonzio e Valle dell'Idria. Superata l'emergenza postbellica, si moltiplicarono anche per la Meltal le iniziative intraprese per la Bruna. Le mostre di Tarvisio e Pontebba del 28 rilevarono che la razza era perfettamente adatta alla zona. Agli inizi degli anni 30, su proposta del veterinario Curri, la cattedra ambulante portò 10 riproduttori Meltal muniti di certificato genealogico. Nel 1935 venne organizzata una mostra a Camporosso. In quegli anni i tenutari della Val Canale si organizzarono e aderirono al Consorzio Provinciale Friulano dei Tenutari. Nel 1937 si tenne a Ogovizza il primo mercato concorso bovino di razza Meltal. E qual è la situazione nel Gemonese, nel Valle del Torre, nelle valli del Natisone? In seguito all'introduzione della Vallostana, ancora nel 29 si definiva la popolazione elevata nel Gemonese pezzata rossa di montagna, e solo nel 31 la denominazione Meltal compare in occasione di mostre e concorsi. Nel 34 Gemona furono scelte e iscritte al libro genealogico una trentina di vacche sottoposte al controllo della produzione del latte, fecondate con un toro di sicura genealogia importato dalla Carinzia. Nella Valle del Torre e del Natisone l'introduzione di tori bruni a partire dagli anni 20 portò una presenza di meticci. Il parco di Villa Rubini a Spessa di Cividale presenta alcune particolarità storiche e botaniche, tra cui alcune piante secolari, riconosciute alberi monumentali della regione, ma è anche il parco incantato, dove personaggi fantastici accolgono i piccoli visitatori, come ci racconta Franca Merluzzi. Il parco di Villa Rubini fa parte di un contesto agricolo di notevole valore storico ed è circondato da vigne ed ulivi. È annesso alla villa fattoria dotata di chiesetta, fabbricati rustici e serra. Nel 1860, a completamento dei lavori di ristrutturazione, l'architetto e ingegnere Andrea Scala ebbe l'incarico di progettare il giardino con un prolungamento a parco verso la campagna. E così ancora, con il grande prato centrale, gli alberi di notevole altezza e la vegetazione ai margini che si espande in libertà. Il percorso si snoda tra piante secolari, alcune riconosciute alberi monumentali, la tuia gigante, il gruppo dei ginkgo, il cedro dell'Himalaya, il gruppo dei cedri dell'Atlante, l'albero dei tulipani, gli esemplari di cipresso calvo, il faggio rosso, alto 27 metri, definito una rarità botanica per età, forma e portamento. Il luogo offre rifugio a varie specie di animali, tassi, volpi, upupe e negli anfratti pipistrelli indicatori di qualità ambientale e di biodiversità. La visita è consigliata a chi ama il contatto diretto con la natura e da qui si può proseguire per escursioni mountain bike. La tenuta ha conservato le sue caratteristiche e pertinenze, come voluto tenacemente da Rosa Rubini, che ne ha studiato la storia. Tra gli avi va ricordato l'agronomo Domenico Rubini, che ricoprì cariche a livello locale e nazionale e diede impulso alla viticoltura. Accanto alla villa si conserva la vecchia cantina, visitabile, una delle prime censite in Italia. E il parco incantato, oltre all'attività agricola, Villa Rubini ospita una fattoria didattica e sociale. Una cura particolare è riservata all'accoglienza delle persone disabili e alle visite delle scuole dell'infanzia e primarie. Nel parco incantato, Diletta Rubini ambienta le storie sotto i grandi alberi e coinvolge i bambini in giochi raccontando di elfi, folletti, fate, streghe e orchi, ma anche di sbilfs, agane, crivapete, mazzarò di bosco, bergul e altri esseri mitici. In autunno i piccoli ospiti raccolgono le olive e i grappoli d'uva che poi pigiano dei tini con grande divertimento. E con Gabriele Caiazza ripercorriamo ora le nuove fortune della grappa friulana tra fine anni 70 e anni 80, ormai trasformata in raffinato distillato, capace anche di contribuire al recupero dei vitigni autoctoni locali. Come in altre parti d'Italia, anche da noi il miglioramento della materia prima e il perfezionamento degli alambicchi continui, insieme alla valorizzazione di quelli discontinui, consentirono un forte cambiamento del profilo organolettico del prodotto e al contempo un recupero della tradizione, a tutto vantaggio della qualità, potenziando l'immagine della grappa sia in patria sia all'estero e facendo risalire i fatturati delle distillerie in parallelo alla risalita degli acquisti e dei consumi. Proprio all'antivigilia di tale sterzata, nel 1979, a Butrio, gli organizzatori della Fiera Regionale dei Vini, giunta alla sua 47esima edizione, decisero di integrare l'ormai tradizionale manifestazione con una nuova sezione, Mostra Assaggio della Grappa Friulana, che riproposero da prima cadenza biennale, la seconda edizione fu nel 1981, e poi annualmente per una trentina d'anni, arricchendola a partire dal settimo allestimento 1986 con il premio Lambic d'Aur, Alambicco d'Oro. Sulla scia del successo ottenuto dall'iniziativa butriese, a Cormons nel 1987 fu organizzato il primo concorso mostra regionale delle grappe per la valutazione di cinque tipologie diverse, le aromatiche d'annata e le invecchiate, le non aromatiche d'annata e le invecchiate, nonché le aromatizzate. Con 34 grappe differenti parteciparono 15 distillerie friulane e la Stock, al vertice delle grappe nazionali con campioni di vendite anche all'estero grazie alla pubblicità e ottimo traino per le altre ditte regionali. Nel 1984, intanto, era nata la sezione internazionale del premio letterario Nonino, che da un settennio affiancava il più tecnico Nonino Risit Daur, istituito e avviato nel biennio 75-76 al duplice scopo di mettere in risalto i valori della civiltà contadina ed evitare l'estinzione degli antichi vitigni autoctoni. Fra l'altro, da ormai un anno, a Percotto si reimpiegava come piccola distilleria anche la vecchia fucina in cui nella prima metà del Novecento aveva forgiato aratri il Fari Bulfoni. Nel 1985, invece, Arnaldo Bennati aveva trasformato l'antica proprietà terriera Strassoldo poi Levi a Farra di Sonzo nell'odierna azienda Tenuta Villanova, unica del Collio Goriziano e fra le rare in Italia, a distillare artigianalmente le proprie vinacce a pochi metri dalle cantine deputate alla lavorazione dell'uva dei vigneti di proprietà. Nel 1990-96 la distilleria sarà poi rivoluzionata per proseguire con l'Ateneo Udinese il progetto di replicare in unica sede i vari metodi distillatori usati nell'ultimo mezzo millennio e la famiglia continuerà a condurre con moderni criteri imprenditoriali i suoi 127 ettari vitati, non tralasciando la produzione di limitati quantitativi di grappe. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Venerdì scorso conferma l'andamento cedente alle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 19,80 e 20,10, l'orzo tra 19 e 19,50 e la soia tra 32,40 e 32,90. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 50 centesimi e quello della soia di 4,90 euro al quintale. Scambi modesti con prezzi generalmente riflessivi al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate nella media tra 0,80 e 1 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 0,90 e 1,10, le zucchine tra 1,30 e 1,50, la scarola riccia tra 2,60 e 2,70, le melanzane tonde tra 1,50 e 1,60, i pomodori italiani in grappolo tra 1,80 e 2 euro, i finocchi tra 1 e 1,30, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso precoce tra 1,30, i peperoni gialli e rossi tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 0,90 e 1,20, gli aspargi tra 4 e 6 euro, i kiwi tra 1,50 e 1,80, le fragole tra 1,60 e 2 euro e le arance tarocco tra 0,70 e 1,40. Spunti di ripresa nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,30 e 5,95 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Infine è normale il trend nel comparto degli avi cunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,98 e 1 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,35 e 1,37, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,99 e 2,05, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 14 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. Questa settimana abbiamo avuto piogge da intense a molto intense sui monti, mentre su pianura e costa sono state da abbondanti ad intense, dopo un lungo periodo durato 2 mesi di precipitazioni piuttosto scarse. Sulle prealpi carniche sono caduti dai 150 ai 300 mm di pioggia in meno di 2 giorni, mentre in Carnia in media un centinaio di millimetri, nevicate intense solo ad alta quota. Passando alle previsioni, osserviamo che la settimana entrante vedrà la presenza di una circolazione depressionaria poco definita sull'Italia e le Alpi. Ciò determinerà da domani e per alcuni giorni tempo instabile e incerto, con prevalenza di nuvolosità e piogge intermittenti, più continue e consistenti sui monti, ma non mancheranno anche su pianura e costa e localmente potranno essere anche temporalesche. Le temperature su pianura e costa oscilleranno tra i 10 e i 20 gradi e lo zero termico sarà poco oltre 2000 metri, per cui la neve cadrà oltre 1800 metri circa. I venti saranno in genere deboli e l'aria umida. Comunque potrà esserci qualche fase di tempo migliore, specie su pianura e costa. Questa fase di instabilità del tempo ed anche le temperature previste sono abbastanza tipiche della nostra primavera. Verso il prossimo fine settimana il tempo potrebbe essere più stabile. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffusi anche dai notiziari radio regionali della RAI, nonché sul sito www.meteo.fvg.it e sulla telefonia mobile. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. La prima ioibe di avril si semena il basilico gentil, ovvero il primo giovedì di aprile si semina il basilico. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.